Oh, veramente ti dico una cosa, so come ti sento. A me pure se mi abbuffano i botti in umore. G.O.L.E. 50 Cent. Porto di suvo, cocco raccolto di subo. Guardi che tirano rumfo, mentre sa isa triunfo. Sullo su solo ma asciutto, sunga bandiere ru sud. Sungo carrello ranova, cadda per me ti fa. Perché ti le passate, ne gatti la tua stradale. Sto con esso so volano, ta costiera mafficana. Sto ringhiendo in moloco, bro pa una unico. Gianzi no, se la una bella così ce faccio. Un male ancora, la vola mi applaude. Sa ne riesce a cadere, con giubine faccia sano. Si ci stiva ma vino Daniele mi è serrato. Ne va con coppa a spalle, mi sarete bravo. Sei sicuramente te mano sa fi marenga. E so de se vene sulla faccio belli figure. Ci tengono Natale, pure il pubblico sto aspettando non si merda. Chi fuori è da prima se prepara la vifu. Oggi sono chiuso rindo fantom. Perché se tiene gli altri chi ho qui. Te ma fa vani ci si da mo scendo. Perché ne state pari su Brasil. Femmine, femmine, mandano i baci. Uomini, uomini, sparano in aria. Parti e ladri se fanno i piaceri. Mamma e padre se fanno i spiriti. Stay spotless in the back of the phantom. Niggas think you ain't got the pole until you pop out with the switch. They get the hitting, you get hit if it's a man down. They gon' start pinging the phones to see who did that shit. Murder, murder, putting work in. Shorty twerking, ops lurking. Starting to feel like everybody on gang time. I don't give a fuck what she's fucking on. Or she's sucking on what's going on. That bread niggas was blowing is gone. 1 minute I'm up, next minute I'm getting back. But I'm never down and out, man, what kind of shit is that? I'm from the gutter, I take nothing to make something. I made something out of nothing, now look at me now. Niggas been frontin' like they gon' do me something for so long. They old school threat sound played out, saying they gon' do shit. They ain't gon' do shit. Boy, I fuck you over in the